Allora indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 4707, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. Dichiaro aperta la votazione. I colleghi hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 309, votanti 308, astenuti 1, maggioranza 155, favorevoli 308, contrari nessuno. La Camera approva.